Oggi sciopereremo in piazza per denunciare la proposta e la comunicazione di Bianchi, che ha deciso di rimettere una maturità quest'anno come se nulla fosse successo, come se 3 anni di DAD non avessero cambiato niente nel percorso degli studenti. E questo è un ennesimo attacco verso gli studenti da parte del governo, che si vede quanto gliene frega di noi, in quanto l'abbiamo visto con la morte di Lorenzo, l'abbiamo visto qual è stata la risposta delle istituzioni, cioè la repressione, le manganellate, e adesso come per aiutarci ancora di più, e quindi appunto senza voler riconoscere il nostro percorso pieno di disagi psicologici, pieno di lacune, appunto un percorso in DAD fallace, hanno anche deciso di mettere questo esame della maturità, comunicandocelo tra l'altro poco prima, e questa è una situazione insostenibile e dimostra veramente qual è la loro intento, cioè di tirare dritto con dei programmi politici, perché è un problema politico, che non si curano per niente del benessere di noi studenti, ma che anzi ci mettono sempre in difficoltà. E appunto l'abbiamo visto con la maturità, l'abbiamo visto con l'alternanza scuola-lavoro, che va assolutamente abolita perché è il pensiero di base iniziale che è marcio, l'abbiamo visto con la gestione della pandemia in cui gli studenti sono stati l'ultima ruota del carro. A proposito della maturità, qual è l'aspetto più problematico per voi? Sicuramente che hanno reintrodotto gli iscritti, hanno tolto la tesina interdisciplinare e tra l'altro ci sarà appunto negli iscritti, si dovrà parlare pure di PCTO e educazione civica, che attualmente come sono fatti sono puro greenwashing. Appunto questo va a disabilitare l'aspetto critico e personale individuale dello studente, togliendo veramente tutto lo spazio al pensiero critico, ma anzi mettendole in prove in cui ancora adesso, dopo 3 anni di DAD, ci mancano le basi. Torno un secondo anche sul tema dell'alternanza scuola-lavoro. Tu hai già accennato appunto la morte di Lorenzo, dicevi è sbagliata alla base. Perché? Certo, perché l'alternanza scuola-lavoro nasce e sebbene ci dicono che serve per far trovare un posto di lavoro per gli studenti, alla fine vediamo come nella base ci offre del lavoro da sfruttati, da precari, e lavori spesso estenuanti, ripetitivi, obbligatori, e ci fa andare a lavorare in azienda, quando invece il nostro noi come studenti dovremmo studiare, imparare, e non dovremmo stare in un'azienda rischiando tra l'altro anche la morte. E quindi si vede un doppio problema nell'idea di fondo dell'alternanza scuola-lavoro, che nasce come progetto non per gli studenti, ma per avere appunto del profitto da parte di aziende private, e per rendere ancora più inscindibile la relazione che c'è tra la scuola pubblica e la scuola privata. In più si vede anche l'altro problema, che infatti si è visto anche le 24 ore dopo la morte di Lorenzo, che ha visto altri 7 operai morire nei posti di lavoro. E l'idea appunto di base è di una scuola professionalizzante che ti dà delle competenze e ti insegna a stare nel mondo del lavoro, ad ubbidire, a venire sfruttato, perché poi dico base, nessuno sa che lavoro avrà, che futuro avrà, perché abbiamo una crisi di prospettive, sappiamo l'unica certezza che avremo è un futuro precario. Dicevo che è una manifestazione nazionale, a Bologna come si svolge? Certo, a Bologna ci ritroviamo alle ore 10 in Piazza dell'Unità con studenti di varie scuole, e poi da lì decideremo se spostarci in corteo.